sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Focus Economia con Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi ci sono io, lunedì tornerà Sebastiano Barisoni come sempre. Il 349-238-6666 è il numero per i vostri sms. Di cosa parleremo oggi? Naturalmente del Consiglio dei Ministri. Devo dirvi la verità, abbiamo vissuto un attimo, per così dire, di terrore 10 minuti fa, quando è uscito un flash dell'ANSA che ci annunciava che il Consiglio dei Ministri di oggi, iniziato a 12:30, si era concluso solo per la parte che riguardava la legge sulla concorrenza, che doveva essere varata oggi, che doveva almeno nelle intenzioni tenere dentro molti elementi, da modifiche per quanto riguarda le professioni, soprattutto per quanto riguarda i notai, per quanto riguarda le assicurazioni auto, per quanto riguarda la vendita dei farmaci di fascia C al di fuori delle farmacie, e che era iniziata proprio in quei minuti la discussione su un'altra parte importantissima, che è quella dei decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro. Dopo questo attimo di terrore, una decina di minuti, è arrivata notizia invece che il Consiglio dei Ministri si è propriamente concluso. Di questo parleremo, naturalmente parleremo della riforma del mercato del lavoro e di questi decreti attuativi. Vedremo che cosa emergerà, perché tra poco, tra l'altro, dovrebbe iniziare, a questo punto immaginiamo, la conferenza stampa. Ci occuperemo anche della parte che riguarda la concorrenza. Sono arrivati un paio di tweet a Consiglio dei Ministri in corso, quello del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, che dice, in sostanza, che la parte sulla liberalizzazione dei porti, le liberalizzazioni che riguardano i porti sono rinviate ad un decreto ad hoc, e quello del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che ci comunica che questa ipotesi di vendita dei farmaci di fascia C anche al di fuori del circuito delle farmacie è sostanzialmente saltata. Sta iniziando, tra l'altro, in questi minuti la conferenza stampa. Vedremo se riusciremo a farvi sentire qualche brano, appunto, di questa conferenza stampa del Consiglio dei Ministri. Toccheremo anche i temi di economia italiana, dell'andamento dell'economia italiana. Oggi sono dati positivi per quanto riguarda l'andamento degli ordini, del fatturato, dell'industria, e nel frattempo arrivano anche dati sulla conclamata deflazione anche in gennaio, un meno 0,6%, questa è la conferma dell'Istat. I mercati oggi, ed è l'altro tema associato a quello della Grecia, in corso la trattativa dell'Eurogruppo, a quanto sembra tutto potrebbe slittare ad una nuova riunione dei capi di Stato e di governo da tenersi nelle prossime ore. Stanno arrivando indiscrezioni di tutti i tipi, secondo la Bild, che però è un tabloid tedesco, va preso con le pinze. Ci sarebbe un giallo sulla lettera greca inviata all'Europa, perché il ministro greco Varoufakis avrebbe riformulato il testo che era stato in realtà concordato tra Tsipras, Juncker e Dijsselbloem. E poi però questo testo sarebbe stato rimodificato di nuovo. Insomma, c'è un po' di stranezze ed evidentemente un po' di tensione che riguarda questa trattativa. I mercati, si diceva, mercati tutto sommato non particolarmente positivi. Positivi sì, soprattutto Milano, ma non particolarmente. Siamo quasi in parità, FTSE MIB più 0,03%, FTSE All Share più 0,03%, negative le altre piazze, o meglio, negativa Parigi oggi, che cede lo 0,33%, mentre Francoforte guadagna lo 0,26%. e Londra lo 0,28%, e ancora in luce oggi a Milano le banche, specie MPS più 6,37%, la Popolare Emilia Romagna più 2,6%, abbiamo anche Banco Popolare che guadagna l'1,17%, tra gli industriali Buzzi Unicem che guadagna l'1,77%, Snam l'1,35%, in fondo all'Isino Tenaris che cede l'1,94%, Generali l'1,85%, Telecom Italia l'1,27%. Forse però prima ancora di andare sulle notizie in breve possiamo sentire un passaggio della conferenza stampa in diretta in questo momento da Palazzo Chigi. Vediamo se siamo in grado di farvi sentire l'audio. Abbiamo un problema con l'audio. Allora facciamo così, iniziamo con le notizie in breve di oggi e poi vediamo di riuscire a farvi sentire qualcosa dalla conferenza stampa di Palazzo Chigi. Forse abbiamo recuperato l'audio, vediamo di far sentire qualche passaggio del Presidente del Consiglio Renzi. Quello sul tutele crescenti e quello sulle cosiddette NASPI, che è una sigla molto discutibile. La sintesi è una rete di protezione per chi perde il posto di lavoro, perché tante donne e uomini hanno perso il posto di lavoro e sono state lasciate sole. Quello che accadrà da oggi, da domani, da quando sarà in Gazzetta in poi, è che nessuno sarà più lasciato solo, non solo, ma ci saranno più tutele per chi perde il posto di lavoro. È come se ricucissimo la rete, uno casca dal trapezio e c'è la rete sotto, però c'è un buco nella rete. Abbiamo ricucito quel buco, abbiamo ricucito quella rete. Permettetemi di dire però che vogliamo stimolare chi perde il posto di lavoro, con tutte le difficoltà del caso, a rilanciare e quindi a far sì che questo sia un trampolino e non soltanto una rete di protezione. Così dunque il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che sta ancora parlando in merito all'approvazione dei decreti di attuazione della riforma del mercato del lavoro. Ci vedremo tra un attimo, ne parleremo col Presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria, Marco Gai, e poi ospiteremo Alberto Rioli del Sole 24 Ore, sempre al Sole 24 Ore, poi nella seconda parte della trasmissione con Adriana Cerretelli cercheremo di fare un punto sulla Grecia. Devo dirvi, la situazione è veramente confusa in questa fase. Notizie di oggi. Ci sono quelle, come si diceva, che arrivano dalla Grecia, ma partiamo come sempre dalle materie prime. L'oro che sale dello 0,5%, $1,206 l'oncia. Mentre per quanto riguarda il greggio abbiamo il WTI, quello quotato a New York, ancora oggi in lieve calo con consegna aprile, un meno 0,37% a $51,6 al barile, mentre quello del Mare del Nord, quotato a Londra, in rialzo dello 0,71%, siamo sopra i $60 al barile, a 60,64 per essere esatti. La Grecia. Innanzitutto le dichiarazioni di Angela Merkel. Ieri abbiamo assistito e vi abbiamo raccontato questo che ci è apparso come una sorta di scontro interno allo stesso esecutivo tedesco tra i falchi e le colombe. Il vicecancelliere tedesco, come sapete, dell'SPD, ossia del Partito Socialista Tedesco, e mentre invece il ministro delle finanze Schäuble, ce ne occupiamo fin troppo spesso, è annoverato tra i falchi, aveva detto insomma, questo piano così com'è non va bene. Gabriel, il vice cancelliere, aveva detto ma no, in realtà ci sono delle aperture da parte della Grecia, si può ragionare. Oggi Angela Merkel cerca un punto di mediazione e dice così com'è non ci va un granché bene, però la lettera greca dimostra che Atene è ancora interessata agli aiuti europei, è un punto di partenza, è un buon segnale. E poi assolve, per così dire, Schäuble dicendo vuole una soluzione, è molto impegnato per arrivare ad averne una, siamo fiduciosi che, dice intanto la Commissione Europea, che un accordo sia possibile nel futuro prossimo se tutti sono ragionevoli, ma è probabile che sia necessario più lavoro, a dimostrazione che forse non è oggi il giorno giusto per raggiungere un accordo. Varoufakis, il ministro delle finanze greco, si dice fiducioso. Sentiamo. Spero che si arrivi ad un accordo e sono fiducioso che ce ne sarà uno. Il governo greco ha fatto non uno, ma 10 passi in più per facilitare il compromesso. Ora aspettiamo che i nostri partner ci vengano incontro, se non a metà strada, almeno ad un quinto del percorso. Non ho alcun dubbio sul fatto che ci saranno discussioni molto collegiali e spero che alla fine ci sia una fumata bianca. Avete ragione, mi sono scordato la quotazione dell'euro. Ci vuole un dollaro 13,59 in questo momento per comprare un euro. E a proposito di euro, avete sentito la fiducia di Varoufakis? E però, secondo il settimanale tedesco Spiegel, la BCE si sta preparando per l'uscita della Grecia dalla zona euro e lo staff della banca centrale sta predisponendo un piano di emergenza su come far sì che il resto del blocco dell'euro resti integro. Lo stesso Spiegel, in un'anticipazione, racconta che i greci in questo periodo stanno trasferendo all'estero 1 miliardo al giorno. Fuga di capitali in piena regola. La BCE intanto risponde e dice non vuole partecipare a speculazioni su piani di emergenza per una Grexit, così viene definita l'uscita della Grecia dall'euro. Grexit che potrebbe avvenire, così si specula, nel caso nel quale non si raggiunga un accordo col governo di Tsipras. I dati italiani. Il prodotto interno lordo nel primo trimestre sarà positivo, questo lo dice il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, intervenendo al convegno ad EINF dal titolo Il sistema finanziario fra regolamentazione, stabilità e crescita. Ora, spiegato Rossi, è cruciale con che velocità torniamo a crescere. E il punto è proprio quello. Rossi ribadisce le stime di impatto sul prodotto interno lordo del quantitative easing, ossia dell'acquisto di titoli deciso dalla Banca Centrale Europea, un 1% in 2 anni. Nel frattempo l'Istat ci conferma che l'Italia è in deflazione, un meno 0,6% in gennaio, il minimo dal 1959, quando si ebbe un meno 1,1%, su base mensile il calo è dello 0,4% e sono in deflazione tutti i capoluoghi di regione e le province autonome, fatta eccezione per Bolzano, più 0,3%. Dati positivi da industria e ordini, un balzo dell'industria italiana in dicembre per quanto riguarda gli ordini, più 4,5% su novembre, con un'impennata all'estero, più 8,1%, l'aumento è del 5,8% su base annua. Ebbene, anche il fatturato, più 1,4% su base mensile, trainato dall'estero, più 2,8%, ed è positivo anche il dato sul territorio nazionale, più 0,8%, su base annua la crescita è dello 0,9%. Segnali positivi che arrivano anche da Federmeccanica, produzione 2014 meno 0,8%, ma nell'ultimo trimestre si segnala una crescita dell'1,2%. E proprio su questi dati Istat sentiamo i 100 secondi dell'economia di Radio 24, oggi con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, che poi ritroveremo nella seconda parte della trasmissione per commentare i provvedimenti del governo. 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Cosa significa se in dicembre il fatturato dell'industria registra un aumento dello 0,1% su base annua e dell'1,4% rispetto al mese precedente di novembre? Cosa significa se sempre in dicembre gli ordini segnano un incremento dell'1,8% su base annua e un balzo del 4,5% rispetto al mese precedente? Vuol dire, detto in soldoni, che l'economia reale del nostro paese conferma la fase di scongelamento, visibile ormai da diversi indicatori, nell'ultima fase del 2014 e soprattutto in questo avvio di 2015. Si registra da un anno all'altro, ad esempio, un vero balzo per le richieste di apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, che segnano addirittura un più 33,6%. Vuol dire che gli italiani comprano i piccoli grandi elettrodomestici di cui avevano finora rinviato l'acquisto perché spaventati dal clima di non fiducia nel futuro. Un cambio di passo probabilmente che coinvolge anche l'acquisto di auto, che segna da un anno all'altro un salto del 17,6%. Se gli italiani dunque tornano agli acquisti dei cosiddetti beni durevoli o semidurevoli, sembra aver diminuito l'effetto ubriacatura per gli acquisti di moda dei prodotti elettronici, che risultano in calo del 34,9%. Ma non solo gli italiani, anzi forse di più i nostri clienti esteri, visto che il dato complessivo del fatturato di dicembre configura un salto dell'8% su base annua per l'export, a fronte di un calo di 2 punti della domanda interna. Un dato che però, se guardato con gli occhiali del mese su mese, fa registrare invece un aumento sia su base interna, più 0,8%, sia su base estera, più 2,8%. Dal pessimismo all'ottimismo, dunque, è presto per dire se davvero le aspettative abbiano cambiato definitivamente segno. Comunque, export o no, godiamoci per adesso il miglior dato complessivo da aprile. Era da 6 mesi che il cruscotto segnava rosso fisso. Finalmente quella spia si è spenta. Speriamo non si accenda più. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Adesso ritorniamo, non prima di una precisazione, a sentire quello che sta succedendo a Palazzo Chigi, dove c'è una conferenza stampa. Allora, qua qualcuno scrive via SMS: anche oggi la dose di renzismo. Signori miei, è la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, che è il capo del governo, governo che presenta i decreti attuativi di una riforma del mercato del lavoro e che quindi sostanzialmente riguarda tutti, presumibilmente tanto i lavoratori dipendenti quanto i precari, cococò e cocoprò, per i quali il regime cambierà. Allora, non è una questione di renzismo o non renzismo, si sta presentando un provvedimento che diventa effettivo e che riguarda tutti quanti. Vi facciamo ascoltare, vi diamo informazione, vi diamo la documentazione, come dire. E dunque, sentiamone un altro passaggio. Ci sono più soldi, se si declamano sanzioni, ma poi in carcere in Italia per temi fiscali ci sono 89 persone, tra carcere e misure restrittive della libertà, è evidente che il sistema non funziona. Quindi utilizzeremo tutto il tempo necessario per affinare, ma devo dire che molte delle norme sono già pronte, per cui il rinvio di oggi è dettato esclusivamente dalla circostanza di percarlo all'Eurogruppo, all'Ecofin. Sta parlando Renzi del rinvio delle norme sulla delega fiscale. Sì, abbiamo discusso con Angela Merkel, io spero, penso e credo che continueremo ad avere la stessa posizione. Rispetto a Roma Feyenoord ho parlato ieri in una trasmissione, non trovo motivi di novità per ritornare sul punto. Detto questo, non so se vogliamo partire. Prego. Io le ho risposto, le ho già detto quello che penso, è una domanda che lei mi ha fatto, alla quale ho risposto per cortesia, avendo fatto circa 2 ore e un quarto di trasmissione, capisco che non è la sua trasmissione, ma era un'altra trasmissione su questo tema. Va bene, va bene, siamo a Roma Feyenoord e agli scontri di ieri, che poi naturalmente hanno anche il loro impatto economico, a partire dal restauro della barcaccia, la Fontana del Bernini in Piazza di Spagna, passando per i 3 milioni di euro che i commercianti di Roma denunciano oggi di aver perso. Intanto lo stesso Renzi ha annunciato novità su assicurazioni, telefonini e multe. E anche per quanto riguarda i notai, andremo un po' meno dal notaio perché si semplifica il sistema. Siamo naturalmente in attesa che di tutto questo parlino dettagliatamente i ministri che se ne occupano, ossia il ministro Poletti, che è seduto in conferenza stampa con Renzi, e il ministro delle attività produttive Federica Guidi. Si parla di lavoro in Consiglio dei Ministri e si è parlato di lavoro oggi nel nuovo incontro tra l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, e i sindacati. C'è stata un'apertura, un ritorno al dialogo dopo lo sciopero degli stessi bancari. Abbiamo ritirato le pregiudiziali, dice Alessandro Profumo, il direttore del CASL dell'ABI, uscendo dall'incontro con i sindacati, ma manteniamo la nostra preoccupazione perché il costo del contratto deve essere minimo per garantire la sostenibilità del settore. Quella di oggi è la prima riunione tra le parti dopo il grande sciopero dei lavoratori, dice Lando Sileoni, segretario generale della FABI, il sindacato. Le posizioni però restano chiare, gli scatti di anzianità non si toccano, si tratta su TFR e altre voci, spiega in un'intervista Livia Zancanera. Noi vogliamo rinnovare il contratto entro il 31 marzo. Contemporaneamente abbiamo già dichiarato oggi che non abbiamo paura né di una eventuale disapplicazione del contratto né di un eventuale intervento del governo, perché un'eventuale disapplicazione del contratto in assenza di un nuovo accordo metterebbe le banche in seri guai a livello organizzativo e politico. Contiamo già, in caso di eventuale disapplicazione del contratto, di presentare almeno dalle 15 alle 20.000 vertenze legali. Stamattina comunque avete trovato dei punti di accordo. Più che punti di accordo abbiamo, come dire, dato un segnale politico importante, perché abbiamo programmato 3 incontri che effettueremo entro il 10 marzo e proviamo a fare una sintesi delle posizioni, a misurare le distanze che ci sono tra le nostre posizioni e quelle delle banche per cercare di arrivare, come ho detto prima, ad un accordo entro il 31 marzo. E i punti più critici, secondo lei, della trattativa quali saranno? Noi non intendiamo e non intendavamo subire delle pressioni per quanto riguarda il congelamento di alcune voci del TFR e degli scatti in via strutturale, cioè per sempre. Noi abbiamo sempre sostenuto che per quanto riguarda alcune voci legate al trattamento di fine rapporto, le soluzioni vanno trovate nell'ambito della durata di questo contratto, cioè nell'ambito dei 3 anni. Quindi voi cosa non siete disposti ad accettare? L'abbiamo detto in maniera estremamente chiara, noi non accetteremo un contratto a costo zero, noi vogliamo un contratto che recuperi l'inflazione, siamo disponibili a fare qualche compensazione nell'ambito dei 3 anni della durata di questo contratto, ma certamente non accetteremo mai un contratto a costo zero. Per noi l'argomento scatti non è argomento di scambio all'interno di questa trattativa. Chiudiamo il capitolo banche, questa prima parte della trasmissione, con 2 notizie. La prima riguarda Banca Etruria, che ha presentato questa mattina un esposto firmato dai commissari Riccardo Sore e Antonio Pironti, nei quali si chiede alla Procura di Arezzo di verificare eventuali informazioni lesive della reputazione aziendale diffuse negli ultimi giorni. Ricordiamo che Banca Etruria è commissariata lo scorso 11 febbraio. La seconda notizia che vi dobbiamo dare è una rettifica sulla vicenda di Veneto Banca e delle perquisizioni che hanno coinvolto anche alcuni clienti privilegiati. Nessun provvedimento di perquisizione di altro tipo ha riguardato Giampiero Samorì, come erroneamente riportato su alcuni organi di stampa e anche nella puntata di Focus Economia dello scorso mercoledì 18 febbraio. Le perquisizioni della Guardia di Finanza hanno riguardato solo la società Modena Capitale Banking Participations S.P.A., che non è comunque indagata. Eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms. Vi dico nel frattempo, e tra un attimo arriveremo ai mercati, tra poco arriveremo ai mercati, che Milano ha chiuso positiva, il FTSE MIB un più 0,24%, il FTSE Euro Share un più 0,07%. E come si diceva, è in corso la conferenza stampa finale del Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera ai decreti attuativi sulla riforma del mercato del lavoro. l'elemento forse di discussione che c'era all'inizio riguarda la disciplina dei licenziamenti collettivi. Nei pareri votati a maggioranza dalle commissioni parlamentari si chiedeva al governo di non applicare le nuove regole ai licenziamenti collettivi. Il governo ha deciso di sostanzialmente passare sopra questi pareri e dire no. Come l'abbiamo provato all'inizio, così passa. Una norma che pochi istanti fa il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, ha definito sbagliata. Ma insomma, a questo punto è fatta, è legge. Marco Gai, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, buonasera e benvenuto. Ce l'abbiamo? Marco Gai, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Eccoci. Allora, finalmente siamo arrivati all'approvazione, anche piuttosto rapida, dei decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro. Le chiederei una sua valutazione generale, insomma, anche sul fatto che il governo abbia deciso di passar sopra ai pareri delle commissioni parlamentari e del sindacato sulla parte che riguarda i licenziamenti collettivi. Sicuramente il fatto che si è arrivati al punto dei decreti oggi è un punto importante. Il mercato del lavoro, potrei dire, lo stiamo modernizzando, è più moderno sicuramente rispetto a ieri, più al passo con i nostri concorrenti europei. E sui licenziamenti collettivi, sinceramente, è chiaro che sarebbe stato meglio un allargamento anche ai contratti già esistenti, ma credo che questo discorso per i nuovi contratti sia un primo passo importante. Quindi, come dire, appunto, è un primo elemento. Sento una cosa, oggi voi riunite il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria per la seconda volta in esterna, per così dire, insomma, non a Roma ma a rotazione in un altro luogo. In questo caso siete stati a Bari oggi, un modo, immagino, probabilmente anche per dare un segnale di vicinanza al territorio e al Mezzogiorno nella fattispecie. Molto si è parlato di Ilva, perché mentre il Consiglio dei Ministri approva tutto questo, in Parlamento giace sostanzialmente il decreto per salvare l'azienda. Vorrei capire un vostro giudizio generale. Tra l'altro oggi ho visto che su Ilva ci sono stati un po' di problemi, perché i fornitori, in particolare gli autotrasportatori, che stanno denunciando da qualche settimana più di una tensione, di un problema, sono arrivati addirittura a bloccare l'azienda. Sì, noi abbiamo riunito oggi il nostro consiglio centrale qui a Bari in un progetto che stiamo portando avanti dei consigli centrali itineranti, proprio per essere più vicini ai territori e andare ad approfondire tematiche che riguardano sia il territorio ma sia tematiche nazionali di politica industriale, e Ilva è in questo tema sicuramente centrale. Noi abbiamo visto il decreto Ilva, adesso chiaramente sarà da approfondire, da leggere nei particolari, e l'abbiamo definito, io sono sicuro di poterlo definire, come un punto di partenza, nel senso un punto di partenza che deve traghettare l'azienda e l'indotto dell'azienda verso poi il futuro, per tornare a essere sul mercato, quindi tornare ad un'azienda di mercato. Questo è il primo punto. Il secondo punto, per quanto riguarda i lavoratori, l'indotto, il nostro concetto è che Ilva e il suo indotto è Ilva, quindi non si può trattare gli argomenti in maniera scollegata, ci va grande responsabilità lavorare su un piano industriale al quale mi sembra che si stia lavorando, per rimettere in condizione l'azienda di funzionare e dare certezza al proprio indotto. In questo caso ci va la responsabilità anche di tutti i fornitori, come stanno dando i fornitori dell'indotto, per far sì che l'azienda riprenda e torni a competere. Senta, la vorrei anche su un altro elemento, che sono i dati che sono arrivati oggi, che sono dei dati complessivamente positivi. Insomma, abbiamo gli ordini in dicembre che fanno segnare un vero e proprio balzo, un 4,5% su novembre in dicembre, con un'impennata per l'estero, un più 8,1%. L'aumento su base annua è del 5,8%. Nel 2014 il fatturato frena la caduta, un più 0,1%. Nel mese di dicembre fa segnare un più 1,4%. Anche qua il traino al mercato estero, più 2,8%, anche se qualche segnale di risveglio si fa vedere anche sul territorio nazionale. È, ci si perdoni l'espressione, un incidente o è il segnale di qualcosa di più intenso? Ma oggettivamente io voglio vederlo come un segnale di qualcosa di più intenso, anche in considerazione del fatto che le stime chiaramente non ci sono ancora, i numeri non ci sono ancora, ma a gennaio si stima un più 0,4%. Il cambio è favorevole, il prezzo del petrolio è basso, quindi diciamo che la congiuntura economica c'è per poter iniziare a parlare di ripartenza. Ora, le imprese devono continuare a fare quello che hanno fatto con grande sforzo e fatica negli ultimi anni, cioè investire, stare sul mercato, essere competitivi e puntare sulla qualità dei nostri prodotti. Le istituzioni però oggi più che mai devono essere efficaci e rapide nell'esecuzione, perché se, come intendiamo vedere, non è un incidente ma si può parlare di ripartenza, questo è il momento di investire di più energie e quindi di spingere perché si parli poi di ripresa vera e propria considerevole. E il segno più che auspichiamo tutti alla fine dell'anno sia un segno più che ci faccia contenti, non un più di consolazione. Speriamo che sia davvero così. Tra l'altro oggi il direttore generale di Banca Italia, abbiate pazienza, Salvatore Rossi, dice: siamo ad un punto di svolta, la ripresa sta cominciando, dopo 3 anni e mezzo questo trimestre, quello nel quale siamo, dovrebbe segnare un primo piccolo segnale positivo, ci si aspetta la prosecuzione della ripresa per quest'anno e il prossimo. Speriamo che sia così. Intanto ringrazio Marco Gai, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, la ringrazio e buonasera. Una piccola nota ancora agli ascoltatori che scrivono sul fatto che abbiamo fatto scattare un passaggio della conferenza stampa. Dite, fate andare sempre la conferenza stampa, ma parlate piuttosto di cose serie e non di aria fritta. Le spiego, è in diretta, quindi pesco quello che mi arriva in quel momento nel quale decido di alzare l'audio, non ho un controllo esatto di cosa sta dicendo in quel momento il Presidente del Consiglio. Effettivamente il secondo passaggio che abbiamo sentito non era particolarmente ficcante. A chi ci chiede in breve che cosa si prevede per quanto riguarda i licenziamenti collettivi e su cosa il governo ha deciso di andare contro i pareri delle commissioni parlamentari, semplicemente si tratta del fatto di applicare le stesse regole che sono state decise per i nuovi contratti anche ai licenziamenti collettivi, perché vengono considerati per definizione dei licenziamenti economici. Quindi indennizzo come via principale e non reintegro. Stanno nel frattempo arrivando i dettagli sul DDL concorrenza. Il Renzi dice: in Parlamento sfideremo le lobby. Il ministro Guidi dice: per adesso diciamo abbiamo pochi dettagli, per il momento sono solo dichiarazioni, anche qua aspetteremo il comunicato stampa per vedere e valutare effettivamente. Dice che sarà migliorata la trasparenza per confrontare meglio i servizi bancari ed eliminate alcune asimmetrie tra l'accensione del contratto in banca e la risoluzione da parte dell'utente, quindi detta molto brutalmente sarà più facile chiudere un conto corrente. C'è una norma per favorire la portabilità per i fondi pensione. Arrivano sconti, un pacchetto di misure per la comparabilità delle offerte sulle assicurazioni auto, con l'obbligo da parte delle assicurazioni a praticare forti sconti. Sostiene il ministro Guidi che il DDL concorrenza punta a far calare le tarife o diminuire i prezzi, e aprire i prezzi di mercato, oggi non tanto accessibili per nuove iniziative imprenditoriali. Come ha detto l'OCSE, specifica Guidi, potrebbe portare ad un aumento del PIL fino a 2,6 punti in 5 anni. Da dire che è saltata, anche da quanto risulta le dichiarazioni di Guidi, ma anche da un tweet del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, la possibilità di vendere i farmaci di fascia C al di fuori delle farmacie, parafarmacie comprese, nelle quali c'è un farmacista. Quindi nelle parafarmacie dove c'è un farmacista, i farmaci di fascia C non si potranno comprare, dice il ministro Lorenzin, un elemento di grande tutela per gli utenti, soprattutto gli anziani. Andiamo alla borsa, va! Flavia Carletti, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, chiudiamo in positivo per quanto riguarda Milano, già si diceva prima, un più 0,24% sia sul FTSE MIB che sul FTSE All Share. Parigi chiude in lievissimo calo, quasi in parità, meno 0,05%, bene Francoforte, più 0,44%, e Londra più 0,34%. Giornata ancora dominata dalla Grecia, sì o no? Dall'incertezza sulla Grecia, direi forse, Flavia. Sì, esattamente, infatti comunque la giornata è stata molto cauta e anche a livello di scambi è stata molto sottotono rispetto al resto della settimana, quindi comunque si è osservato proprio l'attesa degli investitori di fronte alla riunione dell'Eurogruppo che è iniziata alle 16.30. Poi proprio sul finale, proprio dopo che era iniziata la riunione, gli indici hanno invertito la rotta, perché dopo aver perso per quasi tutta la seduta Milano, per esempio, intorno allo 0,5%, proprio sul finale c'è stata questa impennata che poi ha fatto chiudere gli indici in positivo. Diciamo, c'è stato un po' di ottimismo, probabilmente dovuto alle dichiarazioni di quasi tutti i leader politici mentre entravano alla riunione o comunque in attesa della riunione, perché sia la Francia che comunque la Germania hanno tutti parlato del fatto che non è un'opzione l'uscita della Grecia dall'euro, e comunque, diciamo, il clima era un po' di ottimismo che un accordo in qualche modo poi alla fine verrà trovato, anche se poi il Der Spiegel ha dato delle anticipazioni su quella che è la posizione del Fondo Monetario Internazionale, secondo il quale invece un'uscita della Grecia dall'euro non sarebbe una tragedia, perché comunque secondo loro l'Europa negli ultimi anni ha comunque creato un sistema tale per cui non ci sarebbe un effetto contagio per gli altri paesi, e quindi comunque ci potrebbe essere una soluzione non traumatica anche se non si trovasse un accordo con il debito greco. Tra l'altro lo stesso Spiegel, lo diciamo poco fa, diceva che secondo indiscrezioni che ha raccolto la BCE starebbe esattamente preparando un piano di emergenza nel caso non si raggiunga un accordo con Tsipras e Varoufakis, insomma con Atene, proprio in caso di uscita della Grecia dall'Unione Europea. Lo stesso Spiegel, lo ricordiamo ancora perché è un dato importante, parla di 1 miliardo di euro al giorno in fuga dalla Grecia. Questa è la dimensione della fuga di capitali. Andiamo sui singoli titoli. Ancora le popolari oggi e ancora Monte dei Paschi, un più 6,7%, Flavia. Sì, esattamente, Monte dei Paschi è stato il titolo a maggiore capitalizzazione che ha registrato la performance migliore. Sono un po' di sedute che va bene, per esempio già ieri era salito del 4,7%, c'è un po' di attenzione sul titolo, c'erano girate sul mercato alcune voci date comunque un po' per assurde, però in qualche modo avevano dato movimento al titolo di un interesse di una società coreana, però in qualche modo che nel futuro di MPS ci possa essere un'integrazione ormai viene dato per certo dal mercato. Lo stesso Profumo ha detto che comunque per ritornare alla redditività serve un'aggregazione, quindi diciamo che è un titolo che ha trovato, il mercato si sta di nuovo interessando in maniera positiva a questo titolo, anche se secondo alcuni operatori comunque c'è poca chiarezza, cioè c'è un interesse sì dopo i conti, in attesa poi della BCE che dovrà dare comunque il suo parere sul nuovo capital plan a a marzo, comunque ormai c'è chiarezza anche sull'aumento di capitale, però comunque si torna ad acquistare come se ci fosse quasi un circolo virtuoso che si fosse ricreato intorno al titolo, in qualche modo si aumenta, il titolo va bene, quindi si rialimentano gli acquisti, anche perché prima di significativi aumenti di capitale è una cosa normale, viene considerata quasi un movimento tecnico normale, perché più sale il titolo meno è dilutivo l'aumento di capitale. Quindi ora che c'è chiarezza su quanto sarà, alcuni operatori identificano in questo movimento la stessa cosa che si era verificata quando c'è stato l'aumento di capitale dell'anno scorso. Allora, Flavia, sempre in tema di banche, vedo complessivamente positive le popolari. Banco Popolare più 1,61, non è una novità in questo periodo, eh. Banco Popolare, come si diceva, più 1,61%, la Popolare Milano che guadagna lo 0,3%, UbiBanca lo 0,29%, bene anche altre banche come Intesa San Paolo, mezzo punto percentuale di guadagno, Unicredit più 0,6%, svetta tra queste la Popolare Emilia Romagna, più 2,5%. C'è qualche motivo particolare? Ma non c'è un motivo proprio che particolare per le banche. Però c'è, diciamo, che da quando sono stati pubblicati i conti nell'ultima settimana le popolari hanno comunque corso tutto il tempo. Per esempio fino a oggi UBI aveva guadagnato il 5%, B per il 10%, il Banco Popolare BPM il 7%, quindi i conti in qualche modo hanno soddisfatto il mercato. C'è sempre questa attesa per la riforma delle popolari che ha di nuovo comunque creato l'attenzione, e anche oggi alcuni facevano notare, alcuni operatori, che anche se la discussione per la conversione in legge del decreto potrebbe in qualche modo essere modificata, comunque viene vista in maniera positiva, cioè non dovrebbe frenare eventuali o aggregazioni o scalate o comunque la contendibilità che tutti si aspettano dalla trasformazione delle popolari. Riesci in 30 secondi a dirmi di Tenaris che c'è dell'1,63% e CNH che in realtà è stata negativa un po' per tutto il giorno e poi non ha subito un calo pesante, mi sembra. Sì, esattamente. Tenaris ha perso l'1,63% perché gli analisti sono cauti dopo la pubblicazione delle stime per il 2015. Tutti gli operatori del petrolio tagliano gli investimenti, Tenaris è un fornitore degli operatori del petrolio, si prevede che probabilmente il 2015 non sarà un anno eccezionale per il gruppo. CNH brevissimamente. Sì, ha subito semplicemente l'influenza negativa della concorrente americana Dire, che ha pubblicato dei conti trimestrali molto deludenti. Eccoci di nuovo, buonasera da Simone Spezia, scusate si è impicciata un po' la lingua, ma sapete, quando uno fa due trasmissioni in un giorno può anche capitare. 349-238-6666 per i vostri sms, come sempre, e ripartiamo appunto dal Consiglio dei Ministri di oggi, che ha approvato di fatto definitivamente la riforma del mercato del lavoro con l'approvazione dei decreti attuativi. E ha approvato anche la legge sulla concorrenza. Sentiremo qualcosa anche su questo. Sentiremo le parole del ministro Guidi. Tra l'altro si prevedono sconti per le assicurazioni auto, o almeno così dice Guidi. E forse il provvedimento che sarà più popolare, sentiremo la voce anche su questo, lo stop al notaio per le transazioni su immobili non ad uso abitativo sotto i 100.000 euro. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, in studio con noi. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti. Ti abbiamo strappato al lavoro del giornale, alla riunione per una decina di minuti per commentare con noi le decisioni appunto del Consiglio dei Ministri, mentre ancora in corso la conferenza stampa. A questo punto Poletti è rimasto solo, sono apparsi all'inizio Renzi, Guidi e Poletti. Renzi e Guidi se ne sono andati, adesso la parte più di competenza del Ministro del Lavoro la sta illustrando lui. E però un riassunto generale lo ha fatto lo stesso Presidente del Consiglio sul tema, tanto i licenziamenti collettivi quanto più in generale sul senso che si è voluto dare, che il Governo ha voluto dare a questo provvedimento. Sentiamo. Due decreti legislativi vengono approvati in via definitiva, quello sul tutele crescenti e quello sulle cosiddetto NASPI, che è una sigla molto discutibile. La sintesi è una rete di protezione per chi perde il posto di lavoro, perché tante donne e uomini hanno perso il posto di lavoro e sono state lasciate sole. Quello che accadrà da oggi, da domani, da quando sarà in Gazzetta in poi, è che nessuno sarà più lasciato solo. Non solo, ma ci saranno più tutele per chi perde il posto di lavoro. È come se ricucissimo la rete. Uno casca dal trapezio e c'è la rete sotto, però c'è un buco nella rete. Abbiamo ricucito quel buco, abbiamo ricucito quella rete. Permettetemi di dire però che vogliamo stimolare chi perde il posto di lavoro, con tutte le difficoltà del caso, a rilanciare e quindi a far sì che questo sia un trampolino e non soltanto una rete di protezione. Agli imprenditori voglio dire che abbiamo tolto ogni alibi a quelli che dicono che assumere in Italia non è conveniente, non solo perché abbiamo fatto una riduzione importante delle tasse, ma anche perché gli elementi di incertezza e di mancanza di flessibilità sono venuti meno. Da oggi il lavoro è più presenta più flessibilità in entrata, è più facile entrare nel mondo del lavoro e più tutele in uscita. Nessuno resta solo quando viene licenziato. E su questa seconda parte, Alberto, magari arriveremo tra un attimo, perché non è il primo tentativo di introdurre uno strumento simile, cioè una sorta di tutela alla disoccupazione quando si esce dal mercato del lavoro e tentativo di reinserimento. E quindi vorrei anche capire da te, che di questi temi ti occupi da anni, insomma, quali sono le difficoltà di attuazione di uno strumento di questo genere. Però ci voglio arrivare tra un attimo. Prima vorrei sentire un tuo commento, una tua analisi su quello che poi alla fine è stato approvato oggi. Un po' quello che era previsto, no? Da una parte la disciplina sui licenziamenti collettivi, che non accoglie né le richieste del sindacato né quelle delle commissioni parlamentari, dall'altra parte questa idea di superamento dei COCOPRO, lo dice Poletti proprio adesso, stop ai COCOPRO dal 2016 e verifica su quelli esistenti. Alberto. Sì, sono i provvedimenti che attuano la legge delega di riforma del mercato del lavoro in Italia. È una cosa importante perché viene affrontato il tema dell'articolo 18, tabù per molti decenni e quant'altro, e viene risolto con questa introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che per l'appunto modula gradualmente, a seconda dell'anzianità aziendale del singolo lavoratore, il corredo di garanzie, tra cui anche l'articolo 18 limitato ad alcune fattispecie di licenziamento illegittimo. E questo è in grandissime linee il cuore della riforma. Ora, poi nella navigazione parlamentare c'era stato un tentativo di ripoliticizzare la discussione, e da parte della sinistra del PD, di SEL e di altri si voleva tornare indietro su alcuni punti che sarebbero stati una bandiera politica, diciamo così, la non estensione di questo tipo di regole ai licenziamenti collettivi e l'abbattimento della durata dei contratti a termine, che nel primo provvedimento Poletti erano stati portati a 36 mesi con 5 proroghe possibili, ed è stata una cosa molto accolta con grande favore dal mercato e dalle imprese, che invece in quest'ultima fase di discussione si voleva ridurre a 24 mesi. Insomma, queste due cose sono state rigettate, non sono state fatte proprie dal governo. E con questo atto, che di fatto riguardava due aspetti anche minori, se così vogliamo dire, di tutto l'impianto della legge, però il governo ha dato un segnale molto importante sulla tenuta della barra riformista della sua azione su temi sensibili come il lavoro. È più, diciamo così, il risultato politico che non il risultato di fatto, anche se quello di fatto avrebbe creato comunque una confusione, un eccesso poi di ricorsi al giudice, una confusione normativa nell'applicazione della nuova norma e quant'altro. Quindi è andata bene così. Ha un valore pratico, ma anche un grosso valore politico, di un governo che non ha ceduto rispetto all'orientamento alla bussola riformista che si è imposto su un tema delicato e ad alto valore anche d'immagine internazionale, perché come avranno visto, avranno sentito anche i nostri ascoltatori, negli ambienti internazionali che contano, dall'Europa all'OCSE al Fondo Monetario, è stato un susseguirsi di elogi della riforma del Jobs Act, perché con questo l'Italia ha dato il segno che davvero vuole cambiare un orientamento che si era troppo sedimentato nel tempo e aveva impedito poi di creare quell'humus favorevole agli investimenti, alla creazione di imprese e al rilancio quindi dello sviluppo del prodotto interno lordo italiano. Al di là puramente della questione dell'articolo 18, Alberto, la tua impressione è che il risultato, uno dei risultati si voleva ottenere era dare semplificazione alle aziende, no? Perché il problema era esattamente questo, una giungla di norme nella quale era difficilissimo orientarsi tra appunto contratti collettivi, contratti aziendali e non solo naturalmente, anche decine di forme di contratti flessibili, no? Dai, per far fare un lavoro di un'ora potevi passare dal Cocco Pro al voucher, al job on call e così via. Ti sembra che questa dimensione ci sia nel lavoro fatto dal governo? Sì, si potrebbe ancora aumentare, ma comunque c'è sicuramente un tentativo di semplificazione. E poi bisogna però storicizzare, senza farla troppo lunga, il motivo per cui si era arrivati a un eccesso di figure di flessibilità in ingresso, perché era di fatto l'unico modo per eludere il totem e il moloch del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che era quello classico imposto, diciamo così, dal giuslavorismo anni 70, che non concepiva altro. Mentre il lavoro evolveva e soprattutto le modalità di produzione evolvevano e si liberavano spezzoni di lavoro, pezzi di possibilità lavorativa che non configuravano necessariamente un lavoro a tempo indeterminato classicamente inteso, come era peraltro inteso negli anni 70-80. Quindi è stato importante in realtà che si sia dato uno strappo in avanti sulla iperflessibilizzazione in ingresso, però a questa non ha corrisposto un'ulteriore flessibilizzazione in uscita, che avrebbe un po' creato quella sorta di bilanciamento per la gestione del mercato del lavoro, e quindi si è creato alla fine un doppio binario: da una parte i giovani, le nuove generazioni iperprecarizzate su cui ha gravato tutto il fardello della iperflessibilizzazione, e dall'altra il circolo degli insider, chi aveva avuto un'occupazione a tempo indeterminato che rimaneva intoccabile e poteva godere di tutti i benefici e le tutele stratificate nel corso del tempo per la primazia di una serie di ideologie giuslavoriste, diciamo così, che poi hanno trovato grande sponda nella politica. Questa cosa è un po' rimessa in discussione obiettivamente con il Jobs Act, e il tentativo di semplificare sia nella fase di entrata sia nella fase di uscita è evidente. Ora però non è tutto così semplice come racconta il Premier in realtà, perché è come sempre la narrazione che fa Matteo Renzi è lineare, fascinosa e quant'altro. Ora è soprattutto nella fase di uscita della tutela della gestione degli ammortizzatori sociali che il capitolo ancora non è del tutto perfettamente chiuso. Intendiamoci, sono comprensibilissimi i timori degli ascoltatori, che sono i lavoratori dipendenti oppure che stanno cercando lavoro e che dicono: ho paura di essere licenziato. A me sembra che qua il tema, ed è il punto al quale volevamo arrivare, non sia tanto l'uscita, ma come si rientra e come si viene tutelati da una sorta di sussidio di disoccupazione, per dirla molto semplicemente, poi possiamo chiamarlo come vogliamo, NASPI o comunque vogliamo, che ci tuteli nel momento nel quale cerchiamo lavoro, ci riqualifichiamo, facciamo dei corsi di formazione e siamo pronti ad affrontare un'eventuale nuova avventura lavorativa. Alberto Rioli, su questo fronte. Eh sì, appunto, è un dibattito tutto sfocato, assolutamente fuori fuoco, quello che ha concentrato questo tipo di innovazione solo sul dibattito sui licenziamenti. È il tentativo di creare un sistema di regole chiare e semplificate per consentire alle imprese di assumere. E non a caso i primi effetti già ci sono stati, perché nel solo annuncio della legge quadro, nella legge delega, il Jobs Act, a dicembre sostanzialmente sono venuti fuori 100.000 posti di lavoro. I contratti a termine semplificati e incentivati sulla base dell'ultimo decreto Poletti hanno creato anch'essi una buona quantità di nuovi occupati. La Fiat ha fatto 1.350 assunzioni nuove, la Telecom ne annuncia 4.000. Insomma, stiamo parlando di assunzioni, non di licenziamenti, obiettivamente. Questo tipo di approccio sulla riforma a maggior ragione consente alle imprese che vogliono investire di poter ulteriormente assumere e ingrandire il proprio organico. Il problema è semmai è all'uscita, ma all'uscita, diciamo, come chi perde il lavoro viene tutelato dagli ammortizzatori sociali. Esistono già oggi, come ben sappiamo, cassa integrazione, mobilità e quant'altro. Cassa integrazione, non dimentichiamolo mai, è autofinanziata da imprese e datori di lavoro dell'industria da sempre, mentre è finanziata in deroga con la fiscalità generale, quindi con le tasse di tutti, per una serie di comparti, dal commercio agli artigiani, che altrimenti non se la sarebbero mai pagata. rappresentando un'anomalia obiettivamente. Ora il tentativo della riforma è di creare un ammortizzatore sociale cosiddetto universale, cioè pagato da tutti, anche dai settori che fino adesso non hanno pagato un loro corrispettivo di ammortizzatore sociale, per poter estendere questo tipo di tutela a un po' a tutti i settori. A fronte di questo c'è un nuovo contratto di ricollocazione abbinato a una serie di voucher che vengono poi utilizzati da chi ti riassume come sconto sul carico dei contributi, che sono legati alle opportunità che la struttura pubblica o parapubblica o pubblico-privata del territorio riesce a darti, a te che hai perso il lavoro, che non l'hai ancora trovato, e che devi accettare naturalmente. Se l'agenzia per l'impiego ti trova un posto a Centralinista e tu non lo accetti, chiaramente non hai più diritto all'agevolazione, al voucher, a quant'altro, e perdi la priorità. Questo dovrebbe essere in soldoni il meccanismo, sono meccanismi che costano un sacco di soldi, questo è il punto. Il finanziamento che c'è a fronte della scelta di oggi, del decreto attuativo e quant'altro, è un paio di miliardi o poco più, in ragione d'anno, per 2 anni. È chiaramente una navigazione a vista, cioè l'approccio è molto pragmatico, evidentemente prudenziale, si vuol vedere come il sistema recepisce la novità e poi eventualmente si calibreranno le risorse, anche se eventualmente si calibreranno le risorse significa che bisognerà trovarle, e si parlerà, qualora il sistema dovesse funzionare a regime sulla base di numeri che abbiamo già visto in passato, di cifre molto più consistenti, e quindi che inevitabilmente imporranno scelte nette di politica economica sull'agenda delle priorità. Grazie Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, per questi chiarimenti e questi approfondimenti. Una piccola precisazione all'ascoltatore che notava, anzi sono due in realtà, che notava che Alberto Rioli ha detto, a proposito della narrazione di Renzi, lineare e fascinoso, non era riferito al Presidente del Consiglio, era riferito alla narrazione medesima, e infatti si diceva la narrazione è questa, e però c'è un problema dall'altra parte, che è quello in uscita al mercato del lavoro. Se avete colto tutto il discorso, avete capito che il discorso era esattamente l'opposto, insomma. Grazie Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ci sono anche le liberalizzazioni da segnalare su questo fronte, che si prevedeva una vendita, la possibilità della vendita, almeno inizialmente, dei farmaci di fascia C, perché ce lo ricordate, l'abbiamo detto anche prima, però lo diciamo di nuovo. Farmaci di fascia C anche fuori dalle farmacie, nelle parafarmacie e nei supermercati. Questa è saltata perché così ha voluto NCD e lo ha detto anche il ministro della salute Beatrice Lorenzin, questo è da segnalare. Arrivano, tra le altre cose, dice il ministro Guidi, sconti per le RC auto. Temi, insomma, che noi abbiamo toccato sono assicurazioni e fondi pensioni, comunicazioni, poste, energia, banche, professioni e farmacie. Allora, per quello che riguarda le assicurazioni, certamente questa è una misura che noi abbiamo inteso soprattutto a favore naturalmente del consumatore finale, perché abbiamo sostanzialmente inserito nel testo un obbligo da parte delle assicurazioni a praticare dei sensibili sconti rispetto alle tariffe, diciamo, oggi praticate, nel caso in cui l'assicurato, il cliente, decida di accettare alcune condizioni, fra cui l'ispezione preventiva del veicolo, l'installazione o la presenza a bordo della cosiddetta scatola nera, l'installazione di rilevatore del tasso alcolemico, insomma una serie di strumenti che alla presenza dei quali le assicurazioni, sotto il controllo dell'IVAS, dovranno poi creare, insomma, un pacchetto di offerte di prezzi alla fine sensibilmente più basso. C'è molto altro, delle farmacie abbiamo detto, c'è lo stop al notaio per le compravendite sotto i 100.000 euro, portabilità per i fondi pensione. Ma cambiamo argomento e passiamo alla Grecia. In chiusura, Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore da Bruxelles. Adriana, buonasera. No, non ce l'abbiamo Adriana Cerretelli, è caduta la linea. Quindi restiamo sulla concorrenza, intanto un altro, o meglio, sul lavoro, perché ci sono delle altre dichiarazioni del ministro Poletti che sono interessanti e che riguardano soprattutto la maternità. I congedi parentali, la fruizione dei permessi parentali passa da 3 anni a 6 anni, cioè fino ai 6 anni del bambino sostanzialmente. Tra le altre cose. Saluto Adriana Cerretelli di nuovo da Bruxelles del Sole 24 Ore. Adriana, buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo perso la linea, in più già avevamo poco tempo prima e mi spiace di tenerti poco, però alla fine questo Eurogruppo è iniziato da pochissimo, mi sembra di capire. Cioè, sì, noi speravamo, esatto, che prendesse il via da qualche minuto. Che prendesse il via alle 3 del pomeriggio, invece la situazione pare essere discretamente confusa. Discretamente confusa, ci sono stati degli incontri bilaterali tra il ministro Varoufakis, la Commissione Europea, Schäuble e il Fondo Monetario, e questi incontri bilaterali si sono protratti dalle 3 appunto fino adesso. Adesso bisogna vedere che cosa succederà, ma sicuramente non è chiaro se siamo al punto di cominciare a negoziare oppure se non finisca per prevalere l'ipotesi di fare un altro rinvio, l'ennesimo, sarebbe il quarto, e passare la palla ai capi di Stato e di Governo. Sì, mi sembra di capire. Mi sembra è un'ipotesi che spera naturalmente sia solo teorica, però... Però diciamo che non è cominciato bene. Sembrava dalle dichiarazioni di questo pomeriggio che si andasse esattamente in questa direzione. Un nuovo rinvio, Adriana, sembra di essere tornati all'epoca dell'inizio della crisi. Esatto, e infatti è molto ha molto l'aria di essere una specie di fotocopia di quella crisi. A quanto pare si è imparato poco. Comunque almeno si spera che alla fine arrivino a un accordo, a un qualche tipo di accordo, e che non prevalga invece questa ipotesi che è ricominciata a circolare, che è quella che la Grecia possa alla fine uscire dall'euro. Era appunto, a proposito di storia che si ripete, era la stessa storia che avevamo vissuto nel 2012 e si sperava di avere seppellito, e invece ci torna. E speriamo che naturalmente un accordo fughi tutti questi scenari che certamente non farebbero bene a nessuno. Certo, grazie Adriana Cerretelli e scusa ancora per il poco tempo dedicato, ma siamo anche stati travolti dalle notizie in arrivo dal Consiglio dei Ministri. Grazie anche a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Valeria Bernardi in regia, le mie scuse a Giuseppe Cruciani, abbiamo un minutino di ritardo circa. Ci si risente lunedì alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente.